La figa sta cadendo, cadendo, cadendo. La figa sta cadendo, ma è una cicciona. Io la voglio salvare, salvare, salvare. Io la voglio salvare, ma rischio di morire. Yeah, figa! Ecco la base, no? Glielo faccio, ok? Okay. La figa sta cadendo, ma è una cicciona. Io la voglio salvare, salvare, salvare. Tutti i miei amici sono con me. Cash on the ball, fare posto. La figa sta cadendo, cadendo, cadendo. La figa sta cadendo, ma è una cicciona. Io la voglio salvare, salvare, salvare. Io la voglio salvare, ma rischio di morire. La figa sta chiamando, chiamando, chiamando. Ma non la sento, ma non la vedo. Bello figo, goddamn boy, collana la Versace. Quindi sai cosa faccio, quindi sai dove vai. Hey tu, baciami la mano, poi vaffan cercaccio, poi vaffan cercaccio, poi vaffan cercaccio. La figa sta cadendo, cadendo, cadendo. La figa sta cadendo, ma è una cicciona. Io la voglio salvare, salvare, salvare. Io la voglio salvare, ma rischio di morire. Sembro Gesù Cristo, metto giù la mia vita. Prima la salvo, poi le dico. Tu mi devi scopare, scopare, scopare. Tu mi devi scopare perché io sono bello. Tu mi devi trombare, trombare, trombare. Tu mi devi trombare perché rischio la vita. Tu mi devi baciare, baciare, baciare. Tu mi devi... La scopo nel letto, con preservativo. La la la, la la la, la la la. La figa sta cadendo, ma è una cicciona. Io la voglio salvare, salvare, salvare. Io la voglio salvare, ma rischio di morire. La figa sta cadendo, cadendo, cadendo. La figa sta cadendo, ma è una cicciona.